Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sette 08, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia per il racconto della giornata economico-finanziaria. Dal punto di vista finanziario, oggi sapete bene, in borsa a tenere banco è il caso Monte dei Paschi per il secondo giorno consecutivo, dopo questa clamorosa scoperta che dobbiamo ricondurre dei brillanti colleghi, quelli del Fatto Quotidiano, che appunto ieri hanno pubblicato questa clamorosa notizia secondo la quale il gruppo ha in pancia delle perdite molto consistenti legate appunto a questa operazione piuttosto ardita fatta tra il 2005 e il 2006, l'acquisizione di una serie di obbligazioni a forte rischio, titoli tossici che avrebbero appunto portato un buco di bilancio molto forte. Oggi si parla di qualcosa come 200 milioni di euro per sanare il quale appunto è stata messa in piedi un'operazione finanziaria altrettanto complicata con la banca giapponese Nomura. Questa vicenda è venuta a galla in questi giorni, una vicenda talmente clamorosa che non solo fa crollare il titolo in borsa, ma addirittura ieri sera ha portato alle dimissioni irrevocabili del presidente dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, perché all'epoca dei fatti era anche numero uno di Banca Monte dei Paschi. Già da Monte dei Paschi Mussari, appunto Giuseppe Mussari, si è dimesso da tempo e ieri sera è toccato invece appunto alle sue dimissioni dal vertice dell'ABI. Ritorneremo ad approfondire questa questione più tardi nel corso di Focus Economia con il collega Fabio Pavesi, che questa mattina ricostruisce molto dettagliatamente l'operazione sulle pagine delle Sole 24 ore, ma naturalmente ci guarderemo anche attorno. Intanto vi dico che Milano perde a causa della pesantezza di tutto il settore bancario circa lo 0,7%, fanno un po' meglio le altre borse europee. Wall Street è positiva, adesso più 0,37%, il mercato americano in questi giorni invece è concentrato sulle trimestrali, quelle tecnologiche in particolar modo. Ieri hanno diffuso i dati IBM e Google, oggi tocca ad Apple e il listino appunto principale sta andando bene, anche il Nasdaq, il diciamo listino di riferimento del comparto tecnologico, guadagna lo 0,31%. Cos'altro raccontare quest'oggi? Che a Davos partono i lavori del forum appunto del World Economic Forum, un appuntamento particolarmente importante per l'Italia perché ad aprire i lavori oggi è il presidente del Consiglio italiano Mario Monti. Si inizia fra circa mezz'ora, alle 17:45 è previsto il suo intervento inaugurale, ma insomma c'è una ricchissima agenda perché questo è un appuntamento al quale partecipano economisti internazionali ed autorevoli, insomma si farà un po' il punto della situazione. Un punto della situazione oggi lo ha fatto anche il Fondo Monetario Internazionale, che invece ha pubblicato le sue stime di crescita per l'economia mondiale. E da Washington che notizie arrivano? Arrivano notizie di una situazione ancora difficile per tutto il 2013. La crescita del mondo sarà di circa il 3,5%, ma per quello che riguarda l'Eurozona ci sarà ancora il segno meno complessivo, con un meno 0,2% del PIL visto per quest'anno. Poi vi daremo tutti gli altri dettagli anche per quello che riguarda l'Italia. Beh, ve lo anticipo subito, il 2013 è visto con un calo dell'1% del PIL appunto italiano secondo il Fondo Monetario Internazionale. Andremo poi naturalmente a dare un'occhiata anche a quello che succede a Taranto, all'Ilva, perché oggi è arrivata un'altra decisione della Procura di Taranto che ha detto no alla nuova richiesta di dissequestro delle merci presentata ieri appunto dall'azienda, e sarebbe stata una decisione importante perché legata anche allo sblocco al pagamento degli stipendi del personale dello stabilimento siderurgico. Quindi oggi cercheremo di capire cosa significa anche questa nuova decisione appunto dei giudici di Taranto. E apriremo però con quanto ha oggi detto Confindustria, che ha presentato la sua proposta al governo, ha presentato una serie di proposte per permettere al paese di riprendere a crescere. Giorgio Squinzi ha detto qua bisogna rimettere mano al settore manifatturiero, bisogna rimettere questo comparto, la manifattura, al centro del paese. Solo in questo modo potremo garantire un aumento del PIL italiano superiore al 2% annuo. Però insomma poi vi Daremo qualche altro dettaglio in più sulle proposte di Confindustria su come dare anche ossigeno alle imprese, perché se non hanno ossigeno difficilmente anche l'industria si può complessivamente rimettere in moto. E poi sentiremo quali sono anche le ricette dal punto di vista delle riforme necessarie per il nostro paese. Quindi anche stasera tanti temi di cui parlare. Per quello che riguarda i vostri commenti, come sempre avete la totale libertà di esprimerli al 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Adesso invece partiamo con le altre notizie in breve. Allora, come sempre si parte con le materie prime. Oro in rialzo oggi a 1693,5 dollari l'oncia, petrolio in calo a New York a 96,28 dollari al barile. Ed eccoci qua che ripartiamo con gli aumenti dei carburanti, con la benzina che è arrivata a 1,83 euro al litro e il diesel a 1,76 euro negli impianti Tamoil. Aumenti anche per esso, 0,5 centesimi solo sulla verde, lo riferisce Quotidiano Energia, che parla di quotazioni internazionali indecisa salita, in parte e per fortuna smorzata dal cambio. Il forum di Davos apre i battenti e il presidente del Consiglio italiano Mario Monti sarà ospite d'onore oggi al World Economic Forum. Aprirà i lavori della sessione plenaria con uno special address, il primo dei cinque che selezionati leader da Cameron a Merkel, da Lagarde a Medvedev, terranno appunto al meeting. Quindi il leader inglese, la cancelliera tedesca, il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, il leader russo. L'Italia sarà sotto i riflettori del forum e Monti ha una ricchissima agenda che in due giorni lo vedrà impegnato su dibattiti ufficiali, workshop a margine dei lavori, incontri informali. L'intervento ufficiale è previsto fra poco, come vi dicevo, subito prima di quello del presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Il titolo dell'intervento di Monti gioca con le parole, un'attività nella quale gli organizzatori di Davos sono bravissimi. Leading against the odds, la traduzione è impossibile, può significare qualcosa come governare nonostante tutto, ma anche guidare contro le avversità oppure primeggiare contro il pronostico. L'ottimismo è nell'aria, soprattutto nei mercati finanziari. I rischi acuti sono diminuiti, ma non bisogna farsi illusioni. Restano sfide considerevoli davanti a noi. La ripresa è lenta, lo afferma il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard. Il Fondo Monetario oggi ha limato le stime di crescita per l'economia mondiale. E allora che cosa ha detto? Che il PIL globale quest'anno crescerà del 3,5% e quindi lo 0,1% in meno rispetto a quanto previsto ad ottobre. Per il 2014 le cose andranno un po' meglio, è prevista una crescita globale del 4,1%. E secondo il Fondo Monetario la Cina si conferma il motore dell'economia mondiale. Il PIL cinese crescerà quest'anno dell'8,2% per poi accelerare ulteriormente all'8,5% nel 2014. E pensate che c'è anche qualcuno che si lamenta di un tasso di crescita di questo tipo in Cina. Il Fondo Monetario ha sostanzialmente lasciato invariate le stime di Pechino che erano state appunto già fatte in ottobre. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, il Fondo Monetario stima una crescita del 2% nel 2013 e un 3% per il 2014. Ma dopo la Cina e gli Stati Uniti, insomma, cosa si dice dell'Europa, visto che è l'area che ci interessa di più? Non ci sono buone notizie, perché l'economia dell'area euro si contrarrà ancora nel 2013, dopo il meno 0,4% dello scorso anno. Il Fondo Monetario ha rivisto al ribasso da più 0,2 a meno 0,2 il PIL di Eurolandia per quest'anno. La crescita tornerà nel 2014, quando il PIL si espanderà dell'1%. Infine, l'Italia, il Fondo Monetario, naturalmente ha tagliato le stime di crescita anche per quello che riguarda il nostro paese. Il PIL è atteso in calo dell'1% quest'anno, ovvero dello 0,3% in più rispetto a quanto stimato in ottobre, invariata la stima, per fortuna, per il 2014, quando si ipotizza una crescita per l'economia italiana di almeno lo 0,5%. Voi pensate, appunto, poi lo sentiremo tra poco, che in Confindustria invece sogna un più 2% per il nostro paese. A dicembre entrambi i flussi commerciali con i paesi extraeuropei registrano una forte flessione rispetto a novembre, meno 0,4% per l'export, meno 1,3% per le importazioni. Su base annua le esportazioni mostrano una contenuta espansione con un più 1,5%, mentre le importazioni presentano una marcata flessione, meno 7%, lo ha comunicato l'Istat questa mattina, diffondendo le stime preliminari di questi flussi. Politica italiana, politica relativamente, Monti non smantella niente, vuole continuare a lavorare sui presupposti della riforma del lavoro. Lo ha affermato stamattina il ministro del lavoro Elsa Fornero, rispondendo ai margini di un convegno ad una domanda sulla possibilità che la sua riforma del lavoro, quella varata nel giugno dello scorso anno, venga modificata. Sentiamo cosa ha detto il ministro Fornero. Non smantellerà niente. Abbiamo lungamente parlato e lui non solo conferma quella riforma, ma vuole continuare a lavorare sui presupposti di quella riforma, il che è normale, quindi io non ho nessun dispiacere da esprimere. Non ho bisogno di essere dispiaciuta, perché io conosco Mario Monti, so che apprezza la riforma e io stessa ho detto mille volte che le riforme, solo gli illusi possono pensare che le riforme nascano perfette, gli illusi o gli ignari. Le persone avvedute sanno che le riforme nascono in maniera anche con delle sperimentazioni che bisogna accettare con apertura intellettuale, vedendo ciò che funziona e ciò che non funziona, e non con la presunzione che tutto sia perfetto fin dall'inizio. Non ce l'ho io questa presunzione, non ce l'ha Mario Monti, per cui siamo perfettamente in sintonia, e se lui promette di cambiare qualcosa io ho fiducia che questi cambiamenti siano nella linea del lavoro che questo governo presieduto da Mario Monti ha fatto. Allora, tra l'altro questa mattina inevitabilmente il ministro Fornero è stata a questo convegno interpellata anche sull'altra questione che è apparsa questa mattina sul Messaggero, secondo la quale, secondo alcuni calcoli dell'INPS, oltre ai 140.000 salvaguardati dal governo rispetto alle nuove regole della riforma sulle pensioni, ci sarebbero almeno altri 150.000 esodati per i quali cercare una soluzione. È una fonte INPS, ha detto il ministro Fornero, e quindi dovete chiedere chiarimenti all'INPS. Sentiamo anche questo passaggio. È una questione che dovete chiedere all'INPS, visto che ci sono di nuovo fonti INPS delle quali il ministro non viene informata, quindi è una domanda che dovete rivolgere all'INPS. Per parte mia, lavorando in maniera direi costruttiva, abbiamo portato a casa la salvaguardia di 140.000 persone. E l'INPS ha prontamente risposto a queste considerazioni, lo ha scritto direttamente al ministro Fornero il direttore generale dell'Istituto di Previdenza Mauro Nori, e ha detto: l'INPS non ha effettuato ulteriori elaborazioni statistiche sugli esodati che non siano quelle già note ai ministeri del lavoro e dell'economia, quindi non ci sono nuove elaborazioni sul numero degli esodati che non siano già quelle note. Ieri tra l'altro si è appreso che il ministro Fornero ha inviato, invierà le lettere ai diretti interessati, le prime 65.000 missive appunto entro febbraio. E infine una considerazione dal mondo sindacale: le indiscrezioni di stampa che parlano di altri 150.000 esodati riportano cifre verosimili, d'altronde anche i primi dati sono stati di quest'ordine, lo ha detto il segretario generale della UIL Luigi Angeletti al comitato centrale per l'elezione del nuovo leader della UIL di Roma e Lazio. Una notizia che approfondiremo dopo, ve l'anticipo già: la Procura di Taranto ha espresso parere negativo su una nuova richiesta di dissequestro delle merci presentata ieri dall'Ilva, che legava lo sblocco al pagamento degli stipendi dello stabilimento siderurgico e all'avvio dei lavori di bonifica ambientale. Oggi intanto è in visita all'Ilva il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che in queste ore dovrebbe incontrare anche il procuratore capo di Taranto. Alitalia dovrà cedere gli slot sulla rotta Milano-Roma, lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di Alitalia. Gli azionisti di riferimento di Alitalia, CAI, compresi alcuni dei maggiori, stanno dando mandato a Rothschild sulle operazioni internazionali di Alitalia, anche per sondare ipotesi di future alleanze e possibili sviluppi delle stesse. Lo ha fatto sapere oggi l'ANSA, dice di apprenderlo l'agenzia da fonti finanziarie. Il mandato, come Advisor sarà concretizzato nei prossimi giorni. Lasciamo le nostre notizie in breve, il primo approfondimento di oggi. Una terapia d'urto per far crescere il prodotto interno lordo di quasi 12 punti percentuali in 5 anni e aumentare l'occupazione di 1.700.000 posti di lavoro. È la proposta della Confindustria di Giorgio Squinzi, presentata questo pomeriggio alle forze politiche che si candidano al governo del paese. Sentiremo adesso quali sono i punti chiavi di queste proposte, ve ne indico già qualcuna: meno IRAP e più IVA, meno costi energetici, ma soprattutto meno tasse e oneri sul lavoro, più flessibilità in entrata nel mercato del lavoro rivedendo la legge Fornero e più ore di lavoro pagate il doppio con una settimana in più di lavoro all'anno sgravata da tasse e contributi, quindi un'azione decisa anche sul cuneo fiscale per alleggerire appunto questa pressione sulle imprese. Poi si propongono tagli alla spesa corrente, la riduzione degli incentivi, la lotta al lavoro sommerso e all'evasione fiscale. Vincenzo Miglietta ha seguito i lavori di Confindustria. Vincenzo, buonasera, ti lascio il microfono per raccontarci qualche dettaglio in più rispetto a questa terapia d'urto indicata da Confindustria. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Anticipavi giustamente da studio ciò che ha lanciato Confindustria, la necessità di una terapia d'urto, ne parleremo tra brevissimo. Prima una breve premessa: la terapia d'urto, ha spiegato il presidente di Confindustria Squinzi, è necessaria perché in questo momento il paese a livelli produttivi di almeno 20 anni fa, la crisi sta lasciando profonde ferite, ha detto Squinzi. Dal 2007 la produzione industriale ha perso ben il 25%, il tasso di disoccupazione è raddoppiato, il reddito per abitante è tornato ai livelli del 97. Questa è la premessa fatta da Squinzi che porta poi alla terapia d'urto di cui parlavi. Ma ascoltiamo quindi quali sono le problematiche del paese proprio dalle parole di Squinzi. Questa situazione che noi stiamo attraversando, lasciatemi ricordare che in questo momento in Italia stiamo viaggiando, quando saremo al punto di svolta nella seconda parte di quest'anno, che pure, come ha annunciato il nostro centro studi un paio di mesi fa e come è stato confermato da altre autorevoli istituzioni, vedrà un ulteriore abbassamento di circa un 1% del PIL, ci ritroveremo in una situazione in cui dal 2007 ad oggi il PIL del nostro paese sarà calato nell'ordine, al punto più basso, di circa l'8%. E se a questo accompagniamo il fatto che anche l'attività manifatturiera nel nostro paese, rispetto sempre al picco del 2007, ha perso il 25% dei propri volumi, voi vi rendete conto in quale situazione complicata e difficile noi siamo. Da questi numeri e da questi dati emerge con molta evidenza che in questo momento noi siamo in un'emergenza economica e sociale. Ricordo il tasso di disoccupazione che sta ormai andando oltre il 12%, per raggiungere probabilmente nel momento di picco più basso un 12,4%, con una disoccupazione giovanile che è nell'ordine del 35%, supera ormai il 35%, quindi una situazione che definire di emergenza, ripeto, non è certamente sbagliato. Questa dunque le problematiche del paese nelle parole di Giorgio Squinzi, da qui la necessità di una terapia d'urto. In pratica, secondo Confindustria, si possono mobilitare ben 316 miliardi di euro in 5 anni, in poco tempo si potrebbe riportare il prodotto interno lordo ad una crescita media del 3% l'anno. Nel medio termine, lo anticipavi Deborah da studio, si potrebbero riportare al lavoro quasi 2 milioni di persone, ma sentiamo ancora Squinzi e nello specifico quindi in che cosa consiste la terapia d'urto presentata da Confindustria alle forze politiche italiane. Dobbiamo riconquistare la crescita, dobbiamo creare lavoro, dobbiamo rimettere al centro le imprese, in modo particolare le imprese manifatturiere e tutte le altre imprese che sono in simbiosi con le imprese manifatturiere. Questo per ridare fiducia agli italiani, per restituire ai nostri giovani un futuro di progresso, di crescita, facendo ripartire l'economia, ma soprattutto rilanciando l'industria come vera colonna portante di questo paese. Quindi il nostro progetto propone una terapia d'urto vera e propria che è basata su una forte discontinuità con le pratiche a cui ci siamo progressivamente adagiati in questi ultimi 15 anni. E deve produrre degli effetti economici immediati, quindi dobbiamo rendere nuovamente competitive le nostre imprese abbattendo i costi, sostenendo gli investimenti. E per terapia d'urto noi intendiamo innanzitutto dare ossigeno alle nostre imprese pagando subito 48 miliardi di debiti commerciali accumulati dallo Stato e dagli enti locali, che in effetti poi, se analizziamo realmente, sono nient'altro che un debito pubblico occulto. Quindi un nuovo rapporto sollecita squinzi delle imprese con la pubblica amministrazione, un rientro dei crediti che il mondo produttivo ha nei confronti dello Stato. Vorrei solamente sottolineare la parte sul fisco richiesta da Confindustria, la ricordiamo: cancellare l'IRE, ridurre l'IRPEF sui redditi più bassi, armonizzare le aliquote IVA. Con questa terapia d'urto, da qui ai prossimi 5 anni, secondo Squinzi, è possibile riportare il Paese a ritmi di crescita che ormai il Paese ha scordato. Ricordo brevemente: 3% di crescita del PIL annuo, 2 milioni di nuovi posti di lavoro, riportare l'Italia a fare in modo che conti sempre di più nel settore manifatturiero che ha fatto la fortuna del nostro paese. Sentiamo quindi gli obiettivi di Confindustria, sempre nelle parole del presidente Squinzi. Applicando integralmente il nostro progetto, nel 2018 noi ritroveremo un tasso di crescita nell'ordine del 3%. In 5 anni il PIL aumenterebbe di 156 miliardi di euro al netto dell'inflazione, il che vuol dire più 2.167 euro per ogni abitante. L'occupazione crescerebbe di 1,8 milioni di unità e il tasso di occupazione salirebbe al 60,6% dal 56,4% attuale, quindi ci sarebbe una crescita di 4 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione scenderebbe all'8,4% dal 12,3-12,4% che è quello atteso per quest'anno, quindi un cambiamento radicale anche in questa direzione. Parlano tutti bene prima delle elezioni, osserva un ascoltatore. Intanto saluto e ringrazio Vincenzo Miglietta. Beh, quantomeno Giorgio Squinzi non è candidato, perché lui fa delle proposte, ha interpellato oggi tutti i candidati e ha mandato loro questi messaggi con delle iniziative concrete. Poi vediamo se ci saranno le condizioni appunto per poter far tutto. Certo che tornare ad una crescita del nostro paese a tassi del 2-3% è veramente un miraggio che noi invece auspichiamo possa essere concretizzato molto rapidamente, perché quanto di più ci sia bisogno nel nostro paese. Eccoci ritrovati ancora in diretta, vedo che stanno ancora continuando da parte vostra i messaggi di commento rispetto alla terapia d'urto indicata oggi pomeriggio da Confindustria per ridare un po' di smalto al nostro paese, per fargli riprendere il sentiero della crescita che quanto di più ha necessità per combattere l'elevatissimo livello di disoccupazione. Le aziende hanno bisogno di alleggerire il costo del lavoro, è stato molto concreto Giorgio Squinzi, ed è appunto, vedo che qualcuno un po' commenta in maniera non troppo positiva queste ricette. Devo dire che però anche da tutte le forze in campo che si stanno presentando con una battaglia estenuante anche in questa campagna elettorale, molta concretezza non è che si sia vista, perché sì, si fa molto qualunquismo sull'IMU, aboliremo questo e quest'altro, ma ricette concrete forse qualcuno era anche necessario che gliele desse. Poi vedremo se ci saranno le condizioni per poterle applicare, perché è molto difficile il presupposto dal quale si parte, è un livello appunto di grossa difficoltà del nostro paese, per cui vedremo, ma in ogni caso almeno qualcuno ha detto qualcosa di concreto. E oggi molto concreta è stata anche la borsa, con questa nuova penalizzazione fortissima dei titoli Monte dei Paschi. Ritorneremo tra poco sulle vicende di Rocca Salimbeni, adesso però vi raccontiamo cosa è complessivamente accaduto in questa giornata a Piazza Affari e non solo. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto faccio una piccola fotografia della situazione in questo momento. Lasciamo da parte per due secondi Piazza Affari. Parigi perde mezzo punto, Francoforte è positiva, più 0,15, Londra è positiva, più 0,28. Ha poi tra l'altro anche un po' di notizie di Cameron, dobbiamo raccontare dopo, lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Wall Street, benino, Wall Street sta esaminando le sue trimestrali, il Dow Jones è in guadagno dello 0,34%, il Nasdaq è guadagna lo 0,27, lo Standard & Poor's perde invece lo 0,09. Wall Street sta appunto così facendo un po' un esame dei risultati trimestrali. In questi giorni è il turno del comparto tecnologico, ieri IBM e Google, tra l'altro i risultati sono stati anche migliori delle attese, oggi tocca ad Apple. Ma andando a Piazza Affari, meno 0,7%, chiaramente poi noi fra un po' approfondiamo il caso Monte dei Paschi, però gli operatori, gli investitori parlano abbastanza chiaramente. Dopo tutto il recupero, tra l'altro, CEO che il titolo aveva fatto quando si era saputo che per Basilea 3, come dire, i parametri d'ingresso in questi nuovi requisiti sarebbero stati alleggeriti, il titolo aveva recuperato tanto, ha bruciato tutto in due giorni. Beh sì, diciamo in quell'occasione avevano recuperato praticamente tutti i titoli bancari, certo, come giustamente ricordi tu, anche perché era sceso molto il titolo del Monte dei Paschi, aveva realizzato delle performance eccellenti su volumi record, che sono gli stessi volumi record di questi giorni, tra ieri e oggi è passato di mano oltre il 12% del capitale, ma soprattutto ci sono state delle vendite, considerato che anche oggi il titolo ha perso l'8,4%, così non solo ha trascinato a ribasso praticamente tutti i titoli bancari dell'Istituto di Milano, che sono state anche penalizzate dal fatto che lo spread sia risalito a 265 punti base, ma poi anche a guardare le performance dei principali indici continentali ha appesantito diciamo lo stesso listino di Milano, che infatti è il peggiore. Allora, tra l'altro, a tutti gli ascoltatori che stanno insistentemente chiedendo, ma Monte dei Paschi, ed è una domanda ricorrente che riguarda anche altri casi, ma la Consob dov'era? Poi tra un po' le chiediamo a Fabio Pavesi che cosa ne pensa di questo aspetto. Dicevamo le banche tutte in calo, UBI meno 4, Banco Popolare meno 4, oggi meno 3 per Finmeccanica. Ormai tutte le vicende di Finmeccanica si legano al destino di Ansaldo Energia. Un giorno i giornali dicono è pronta la vendita e il giorno dopo smentiscono, e ormai Finmeccanica vive di questo. Assolutamente, anche perché Ansaldo Energia è uno degli asset diciamo più succulenti, più preziosi del gruppo, che come noto non vive dei tempi facili, ha una crisi di redditività e di business. Sembrava che nel consiglio di amministrazione di oggi dovesse è anche un po' reputazionale legata ad altre vicende. Assolutamente sì, qui analizziamo la parte finanziaria già questa bassa. Comunque in effetti poi in borsa è da tempo ai minimi storici, insomma, il titolo. Comunque oggi c'era un consiglio di amministrazione di Finmeccanica che sembrava, secondo le indiscrezioni, dovesse prendere una decisione definitiva appunto sulla cessione del controllo di Ansaldo Energia, però sembra che le carte si siano nuovamente rimescolate. In corsa ci sono i coreani di Samsung, la tedesca Siemens, poi c'è anche un'accordata del fondo strategico, però in ogni caso di fronte a queste incertezze il mercato ha servito il titolo, perché non si vede un esito chiaro e immediato dell'operazione. Popolare di Milano meno 2,62, Intesa San Paolo meno 2,60, non ci dimentichiamo che c'è anche la missione di stabilità finanziaria del Fondo Monetario Internazionale in questi giorni, che stanno incontrando appunto, una delegazione sta incontrando i vertici di alcune banche del nostro paese per capire come stanno gestendo il capitolo sofferenze. Buzzi Unice meno 2,56, Telecom meno 2,48, Azimut meno 2,11, tutto sommato a giudicare anche da queste prestazioni prestazioni molto, molto negative e pensavo che l'indice potesse perdere di più. Fare da contraltare ci hanno pensato altre società: Tenaris più 1,67, Autogrill più 1,59. Qua ci sono delle notizie oggi, giusto? Torna prepotentemente d'attualità la questione dello spin-off, cioè della separazione dell'attività di duty free dall'attività food and beverage che viene realizzata appunto dal gruppo che fa capo alla famiglia Benetton, famiglia che avrebbe maturato insomma un orientamento definitivo e avrebbe deciso di separare le due attività, così ognuna viene trattata separatamente e può essere sviluppata in modo ottimale, magari facendo economie di scala piuttosto che aprendo il capitale a investitori di minoranza. Chiaramente stiamo ancora parlando di ipotesi allo studio, non c'è ancora nessuna decisione definitiva, ma nel frattempo la borsa ha premiato questa ipotesi. Campari più 1,46, bene Pirelli più 1,35. Senti, a proposito di Pirelli, oggi andiamo un po' a vedere Canfin, quindi andando verso l'alto nella catena di comando, titolo ha corso molto anche oggi o ha frenato un po'? Diamo subito uno sguardo, arriviamo con il nostro mitico terminale, meno 7,2%, era arrivato a perdere anche il 10%, aveva corso molto nei giorni scorsi, ricordiamolo che da inizio anno era arrivato a guadagnare il 60%, e invece Pirelli oggi, come dicevi, ha guadagnato oltre un punto percentuale. Qui, come sappiamo, ci sono diversi rumors, anche in questo caso, vari contatti con diversi investitori esteri, tra cui si dice anche il Fondo Sovrano del Qatar per entrare in Canfin. Sicuramente la situazione è molto fluida, ma promette degli sviluppi a breve. Sì, un attimo, perché mi stavano dicendo una cosa dalla regia, sa, qua facciamo 300 cose alla volta. Cioè, allora, ci manca da raccontare, tra gli altri casi del giorno, anche della discreta prestazione di Tod's, più 0,88%. Ieri il settore del lusso complessivamente ha avuto una giornata più difficile per i risultati di Richemont. Oggi invece forse si è ripreso il comparto e Tod's ne ha risentito bene. Sì, dobbiamo dire che Tod's vive un buon momento, sicuramente a gennaio ha ripreso di slancio quota 100 euro, difatti oggi ha chiuso a quota 103,2, guadagnato un buon 10% da metà gennaio. Poi nel particolare oggi c'è stato anche uno studio, circolano diversi studi degli analisti che sottolineano le buone prospettive di redditività per il gruppo, e in più oggi il consiglio di amministrazione esaminerà e poi verranno resi pubblici i primi dati sul 2012, in particolare il fatturato che viene previsto in crescita, e quindi il mercato ha iniziato già a scommettere su questa ipotesi. Eccoci ritrovati a Focus Economia. Se diciamo che questa colonna sonora ci proietterebbe immediatamente, così almeno a sensazione, in una dimensione internazionale, devo però invece ancora rimanere a Siena per completare il ragionamento che abbiamo fatto prima con Fabio Pavesi, ricostruendo tutta la vicenda che in questi giorni sta portando a picco il titolo. Sta producendo un danno di immagine per l'istituto di Rocca Salimbeni non indifferente. E allora, prima abbiamo appunto raccontato con il collega del Sole 24 Ore in che cosa consisterebbe questa operazione finanziaria così complicata, che ha portato delle perdite molto consistenti a carico del gruppo, emerse solo in questi giorni, e chissà che non ci sia ancora dell'altro appunto da scoprire. Tutta questa vicenda, visto che questa banca ha 500 anni di storia ed è molto radicata nel suo territorio, in questa provincia, ha prodotto anche forte disappunto nella comunità senese, come potete immaginare. E allora, intanto, a carico degli ex dirigenti di Banca Monte dei Paschi, la provincia di Siena, che nomina 5 membri nella deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi, sta valutando la possibilità di azioni di responsabilità. Lo ha detto Simone Bezzini, che è il presidente della provincia di Siena, questa mattina interpellato dalla nostra Anna Marino. Un colpo duro in primo luogo per la banca, ma è ovviamente un colpo duro anche per la comunità senese. Noi chiediamo che venga fatta chiarezza al più presto sulle operazioni, insomma, che sembra siano state realizzate, diciamo, in un contesto di irregolarità contabile, e che vengano individuate anche le responsabilità. Voi che cosa state pensando di fare anche nei confronti della fondazione? Tutti gli organi, diciamo, della fondazione e della banca, in relazione alle competenze, si devono attivare, appunto, fare chiarezza per individuare le responsabilità, con tutte le azioni di tutela che vanno messe in campo in queste case e che sono previste dalla legge, compresa una verifica anche sulle azioni di responsabilità. Voi state valutando anche la possibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli ex dirigenti della banca MPS? Ovviamente non è competenza di un'istituzione elettiva, di un ente locale, diciamo, promuovere azioni di responsabilità. Ecco, questo è l'invito che abbiamo fatto, diciamo, a tutti gli organi che hanno competenza in materia. C'è un ascoltatore che scrive anche: per Monte dei Paschi vale il concetto troppo grande per fallire, è ovvio che una banca di dimensioni tali che un eventuale default porterebbe ad un danno irreparabile per il nostro paese, molto consistente. Io mi sento di poter assicurare i risparmiatori, chi ha i conti correnti appunto su questa banca, di poter stare tranquillo, anche con i Monti Bond questa operazione verrà sicuramente gestita. È secondo me molto peggiore il danno reputazionale che la banca sta subendo. Intanto nei giorni scorsi Monte dei Paschi aveva annunciato un forte taglio dei costi, perché è tempo di sacrifici per tutti, ma ne hanno fatto le spese le sponsorizzazioni, per esempio alla squadra di calcio, alla Mensana Basket Siena, ma soprattutto è stato azzerato il contributo, un'onta pesantissima, alle contrade del Palio di Siena, il cosiddetto protettorato, ovvero una somma da 255.000 euro complessivi che ogni anno Siena, appunto l'istituto senese, erogava, 15.000 di euro elargiti a ciascuna delle 17 contrade. La nostra collega di Radio Core Il Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, che peraltro è senese, ha chiesto quali conseguenze ci saranno rispetto a questo taglio di contributi al Palio a Fabio Pacciani, rettore del magistrato, che è il capo delle 17 contrade di Siena. Sentite. In realtà il protettorato sintetizza un attaccamento e un'appartenenza, quindi ha un valore simbolico oltre che concreto e tangibile. Quindi oltre che della cifra, ovviamente in questi tempi di magra senz'altro sarebbe stata utile, è più il significato della mancanza di questa voce che fa dispiacere e che fa in qualche modo temere un allontanamento all'interno di una realtà sociale, quella di Siena, già abbastanza in crisi. Nel resto d'Italia si teme per il Palio, ma questo metterà in crisi il Palio? Ma il Palio non credo che sarà messo in crisi, anche perché il Palio è a gestione comunale, la banca sul Palio in se stessa non ha una influenza diretta. Il rapporto tra Contrade e Monte dei Paschi è tuttavia un po' deteriorato. Io credo che questo rapporto non sia deteriorato, quindi credo che le Contrade si debbano impegnare insieme al Monte dei Paschi a ridisegnare questa nuova tipologia di rapporto. E lasciamo le vicende di Siena, una città che vive chiaramente anche delle ore un po' di preoccupazione, di tensione per questa vicenda, ma andiamo ad un'altra città dove le preoccupazioni non sono da meno e ci spostiamo a Taranto, perché adesso dobbiamo raccontare le novità di questa giornata che riguardano l'Ilva. E allora io intanto ringrazio e saluto il collega del Sole 24 Ore da Taranto, Domenico Palmiotti. Domenico, buonasera. Buonasera. Allora, novità del giorno: ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, Patrizia Todisco, ha accolto la richiesta della Procura sollevando la questione di legittimità costituzionale della legge 231, la legge Salva Italia, e inviando gli atti alla consulta. Oggi abbiamo avuto una visita a Taranto del ministro per l'ambiente Corrado Clini, che ha incontrato i vertici dell'Ilva e anche i rappresentanti sindacali. Nel pomeriggio il ministro si è spostato in prefettura, ma quali altre novità piuttosto importanti sono arrivate oggi sul fronte giudiziario, Domenico? Ecco, sta per cominciare la conferenza stampa del ministro Clini. Le novità arrivate è che la procura ha detto no anche a istanza di sequestro vincolato che l'Ilva appunto aveva presentato ieri. È un particolare che si è appreso poco fa da fonti giudiziarie. Nel pomeriggio praticamente il ministro aveva incontrato sia il procuratore generale della Corte d'Appello di Lecce che il procuratore capo di Taranto, Sebastio, aveva evidentemente prospettato loro la situazione dell'Ilva di Taranto, come l'Ilva abbia bisogno di scelte rapide, e i magistrati, uscendo da questo incontro, hanno detto: valuteremo, esamineremo la situazione. Di lì a poco appunto è arrivato il verdetto negativo, che adesso ovviamente rende gli scenari molto più complicati, perché l'Ilva ha già detto più volte che senza i prodotti viene a mancare la liquidità per pagare gli stipendi. Certo. Detta molto brutalmente. Ecco, che cosa avrebbe implicato questo dissequestro vincolato, oltre a questo aspetto tutt'altro che trascurabile, Domenico? Il dissequestro vincolato serviva a questo, cioè si sbloccavano i prodotti andavano ai legittimi compratori e il ricavo ATO ovviamente andava all'AIA e al pagamento degli stipendi, veniva vincolato appunto a queste finalità. Ma Domenico, io capisco bloccare l'azienda per andare avanti con le iniziative di bonifica, il grande tema che è al centro del dibattito da tanto tempo, ma che cosa costa di sequestrare le merci che sono già state regolarmente prodotte appunto per naturalmente darle al loro legittimo proprietario, se poi questi acquirenti le hanno anche pagate? Ecco, il discorso che fa la procura è questo: quelle merci sono il corpo del reato, perché sono state fabbricate con dell'acciaio prima del 3 dicembre, in un periodo in cui l'Ilva aveva gli impianti sotto sequestro e senza facoltà d'uso. Quindi dicono i PM, voi non potevate produrre acciaio e di conseguenza non potevate nemmeno trasformare questo acciaio in simili lavorati, prodotti finiti. Di qui appunto il sequestro. Cosa potrebbe dire oggi su questo il ministro Clini? Se ha già detto qualcosa a proposito di questa decisione? Il ministro Clini non si è ancora pronunciato perché sta completando l'incontro con le istituzioni locali. La conferenza stampa comincerà a momenti. Il ministro Clini ha detto che non abbiamo un piano B per l'Ilva, non possiamo attendere la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale sulla costituzionalità della legge si pronuncerà fra 5-6 mesi, invece qui è una questione di ore. Il ministro ha detto noi vogliamo consentire il risanamento ambientale della fabbrica, il risanamento ambientale di Taranto, tutelare i cittadini, ma tutto questo deve avvenire continuando la produzione, perché se si rompesse questo legame la fabbrica chiuderebbe e il risanamento non ci sarebbe. L'azienda ha altri margini di intervento, di azione? Al momento non è vero, chiederemo a Ferrante che sta partecipando a questi incontri che altri margini. Certo, l'azienda ha provato più volte con varie istanze di dissequestro, questa era anche una mossa che era stata suggerita all'Ilva dalle istituzioni locali a partire dal governatore Vendola. Però i magistrati ritengono che il sequestro vada confermato. Eccoci ritrovati in diretta per l'ultimissima parte di Focus Economia, prima di andare a Davos al World Economic Forum, dove sta già iniziando a parlare, è iniziato a parlare poco fa l'ex premier, a questo punto italiano, Mario Monti, ma prossimo candidato. Andiamo invece a Londra, perché oggi il premier conservatore David Cameron ha pronunciato l'atteso discorso sull'Unione Europea, tra l'altro un discorso fatto in un momento in cui anche in Gran Bretagna non è che se la passino molto bene. La disoccupazione però è scesa al 7,7% al minimo dal 2011, è un'area molto indebitata, come sapete, che vive di prestiti e finanziamenti, però a quanto pare qua le condizioni occupazionali almeno stanno andando un po' meglio che nel resto d'Europa, e questo naturalmente mette David Cameron nella condizione di sentirsi in diritto di chiedere addirittura al suo paese se vuole o meno uscire dall'euro. E quindi oggi Cameron ha annunciato ci sarà un referendum dentro o fuori. Sentiamo questo passaggio del discorso di Cameron, appunto, nell'ambito del più complessivo discorso sull'Unione Europea. Ad un certo punto, nei prossimi anni, l'Unione Europea dovrà trovare un accordo sui cambiamenti al trattato, cambiamenti necessari per il futuro a lungo termine dell'euro e per rafforzare quell'Europa competitiva e democratica che tutti perseguiamo. Credo che il modo migliore per arrivare a questo è di avere un nuovo trattato. Oggi aggiungo la mia voce a coloro che già fanno questa richiesta. Sono dell'idea che i cambiamenti vengano estesi all'intera Unione Europea e non solo alla Gran Bretagna. Ma se non c'è alcuna intenzione di arrivare a un nuovo trattato, allora la Gran Bretagna affronterà i cambiamenti che sente necessari nel corso di un negoziato con i partner europei. Quindi il prossimo manifesto dei conservatori nel 2015 chiederà ai cittadini britannici di dare mandato al governo conservatore di negoziare nuove linee d'azione in accordo con i partner europei. E quando avremo negoziato le nuove direttive con l'Europa, chiameremo i cittadini britannici a un referendum in cui la scelta sarà molto semplice: decidere se restare dentro o uscire dall'Unione Europea. Sarà un referendum dentro o fuori. È arrivato il tempo che i cittadini britannici dicano come la pensano. È tempo che venga posta la questione sul rapporto tra la Gran Bretagna e l'Europa. Voglio dire ai cittadini britannici che sarete voi a prendere la decisione e dovrete compiere una scelta importante per il destino del paese. Capisco il fascino del restare da soli, ma è una decisione che va presa a mente fredda. With cool heads. Nel corso del suo discorso poi Cameron naturalmente è stato anche più attento, perché ha detto comunque bisogna scegliere con molta attenzione se restare o uscire dall'Unione Europea, perché non ci sarebbe ritorno, sarebbe un biglietto di sola andata. Molto più esplicito il suo predecessore Tony Blair, che ha detto che una scelta di questo tipo sarebbe come spararsi un colpo in testa. L'Unione Europea vuole che la Gran Bretagna resti in Europa, e invece il commento del presidente dell'Unione Europea Barroso: l'Unione Europea ha bisogno della Gran Bretagna e la Gran Bretagna dell'Unione Europea, il portavoce del governo tedesco, per cui queste sono un po' le posizioni in campo e vedremo allora quali saranno gli sviluppi futuri di questa vicenda. E adesso invece andiamo a Davos in Svizzera. Buonasera Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Non stiamo facendo altro che annunciare la relazione di apertura di Mario Monti, e subito gli è stato chiesto di commentare i dati che ha diffuso il Fondo Monetario Internazionale da Washington, che naturalmente vede ancora un po' problematica la situazione italiana. Vittorio. Sì, Mario Monti ha fatto un discorso assolutamente di continuità con quanto ha fatto il suo governo nei 14 mesi precedenti. Davanti a un auditorio che rappresenta gli investitori internazionali, ha elencato il lavoro fatto dal suo governo, l'implementazione che ha fatto in appunto 14 mesi di stabilizzazione dei conti, le liberalizzazioni nel settore del gas, nel settore del commercio. Ha rivendicato che secondo l'OCSE queste riforme avranno un effetto di un accrescimento del 4% del PIL in 10 anni, e ha cercato di ridurre i vantaggi degli insider a favore della concorrenza, e qui Mario Monti parlava come ex commissario proprio europeo alla concorrenza. E lui dice però che c'è ancora una forte resistenza in Europa, perché è vero che l'Italia era un po' il malato d'Europa con questo rischio che aveva appunto di avere dei conti non in ordine, ma c'era anche un rischio sistemico nell'euro, e che grazie all'azione di Draghi e all'azione appunto finalmente dell'Unione Europea è stato superato. Quindi Monti, che ha non solo cercato di convincere la platea, ma ha lanciato un messaggio rinnovo, di proseguire appunto in questa strada delle riforme, perché dice che l'Italia per circa 10 anni, se non di più, ha scelto di restare ferma, di non affrontare la globalizzazione, e quindi ha perso competitività, quindi ha fallito nell'affrontare le sfide e è restata ferma, e in qualche modo quindi lui, che si è fatto in forza, perché dice non volevo prendere la guida di questo movimento civile contro appunto le vecchie regole dei partiti che erano in Italia, ha proposto un rinnovo dell'agenda Monti, che debba proseguire nel suo lavoro. L'Italia, dice, è stata differente perché oggi ha un bilancio in pareggio, ha il 4% di surplus primario, abbiamo completato, abbiamo messo nella Costituzione il pareggio di bilancio, abbiamo fatto una riforma delle pensioni che è una delle migliori del mondo come sostenibilità. Non ci saranno solo le tasse per ottenere il bilancio di pareggio, ma resta ancora da fare molto per evasione, corruzione e trasparenza anche nei mercati. Quindi in qualche modo Monti si è candidato, ha presentato l'agenda appunto Monti a questo pubblico da cui ha riscosso applauso e un fragoroso applauso al termine della sua presentazione, che non è ancora ultimata perché si sta ancora svolgendo un'intervista tra Klaus Schwab, che è il fondatore del World Economic Forum, e appunto Mario Monti, che sta rispondendo a delle domande su come pensa di recuperare la competitività dell'Italia. Quindi un piano ambizioso, ma Monti in qualche modo è riuscito a convincere del lavoro fatto e ha lanciato la sfida a quello che lui chiama soprattutto per aiutare i giovani che sono vittime del populismo anti-europeo. Vittorio, è rimbalzata a Davos la polemica che Monti ha avuto nei giorni scorsi con il Financial Times? Non ha avuto nessun eco. Era la mia curiosità. È stato accolto in maniera molto, molto direi molto attenta e molto calorosa, perché è la prima volta che un primo ministro italiano in 43 anni di storia del World Economic Forum ha l'onore di aprire i lavori del World Economic Forum. Mm-hmm. In una sessione plenaria non è mai accaduto, questo è veramente un segno di grande rispetto e grande autorevolezza. Di grande riconoscimento di autorevolezza. Certo, senti, 30 secondi di tempo, anche 40 se vuoi, per raccontarci cosa succederà nei prossimi giorni a Davos, insomma, quali saranno gli incontri più importanti, almeno quelli che tu seguirai appunto e riporterai sul sole. Subito dopo questo incontro c'è un discorso, uno speech di appunto Christine Lagarde che parlerà naturalmente anche del rapporto, di queste nuove stime del Fondo Monetario. Poi ci sarà domani Cameron che dovrà spiegare questo rinvio, qui viene vissuto come rinvio al prossimo governo, perché questo referendum naturalmente è portare in avanti la palla al prossimo governo. E un altro discorso sarà appunto la Merkel, che dovrà spiegare in qualche modo qual è la sua visione d'Europa. Qui Mario Monti ha in qualche modo tirato le orecchie ai paesi del nord che continuavano a parlare solo di riforme per ogni paese, quando ha detto c'era una cecità da parte di questi paesi che non capivano che c'era anche un rischio sistemico nell'euro, cioè c'era ormai un attacco alla moneta unica, e di questo è stata finalmente capita singola oggi storia. L'Italia è riuscita appunto a porre anche il tema della crescita. Grazie a Vittorio Darold, inviato a Davos per il Sole 24 Ore, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, stasera a Pietro Lacorte in assistenza tecnica, domani mi risentite di nuovo per tutta la giornata, ricominciamo domani alle 12.10 con Salvador Danaio. Da Deborah Rosciani a tutti, buona serata. Radio 24, la passione si sente.